Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo due informazioni molto semplici di servizio. Una è la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda è l'informazione sul mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Chi ha la sfortuna di seguirmi da anni nelle mie peripezie giornalistiche sa che sul Sole 24 Ore, in radio e sul blog, lo troverete, è un articolo recentissimo, ho affrontato molto da vicino il tema delle mani della criminalità organizzata o comunque delle truffe o comunque, mettiamola come vogliamo, della faciloneria con la quale purtroppo oggi si accaparrano risorse pubbliche per i parchi eolici. Sono temi distinti ma che hanno molti collegamenti tra di loro. Da una parte la possibilità di truffare ed entrare in possesso di risorse e quindi truffe milionarie per i parchi eolici, dall'altra parte le mani della mafia sulla costruzione di quei parchi eolici che portano ricchezza a chi li costruisce, che portano ricchezza ai comuni che li ospitano, e quando ci sono di mezzo i soldi, i truffatori e le mafie certamente non stanno ad aspettare, né a me né a voi, cari radioascoltatori. Oggi e domani quindi parleremo proprio di questi due aspetti distinti, separati, ma che hanno una matrice comune. La matrice comune è appunto la energia alternativa, l'energia economicamente e ambientalmente sostenibile. Ed innanzitutto ne parliamo con chi? Con il colonnello Mario Imparato, che è comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino. Buongiorno colonnello. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E ne parliamo con l'ingegner Giuseppe Mastropieri di Nomisma Energia, un ricercatore che proprio all'eolico ha dedicato studi profondissimi che ho avuto anche il piacere di leggere. Buongiorno ingegner Mastropieri. Salve, buongiorno Galullo, buongiorno a tutti voi. Allora, io direi di partire con lei, colonnello Mario Imparato, perché alcuni giorni fa avete condotto una splendida operazione che si chiama Via col Vento, che è stata un po' sottovalutata dalla stampa nazionale, non dalla stampa locale, perché mi limito a leggere il titolo dell'Unione Sarda dell'11 novembre, dice truffa milionaria con i parchi eolici, e quello della Sicilia di Catania che lo stesso giorno a pagina 5 titola In manette il guru della green economy, Incello resta vigorito, precursore in Italia dell'energia eolica. Allora, colonnello Imparato, può descriverci questa operazione, in cosa è consistita e chi ha coinvolto? Grazie per l'attenzione, sì, è stata una bella operazione, il nome Via col Vento è un po' una sintesi di certo. Quello che abbiamo fatto, nel senso che ha rappresentato veramente un po' l'attività tipica del corpo, della Guardia di Finanza, un'indagine lunga che si è protratta per circa oltre 2 anni, devo dire la verità, che è iniziata da una iniziale segnalazione del nucleo speciale spesa pubblica, repressione di frodi comunitarie di Roma, e sulla base della quale risultavano beneficiari di contributi diverse ditte, tra cui 9 di queste tutte con sede ad Avellino. Abbiamo cominciato ovviamente tempo fa, quindi ad entrare, a mettere il naso in queste carte, e i primi riscontri sono avuti già nell'estate 2007, quando abbiamo avuto gli elementi per poter sequestrare, tenere un sequestro preventivo d'urgenza presso il Ministero, Ministero dello Sviluppo Economico, perché praticamente ci eravamo accorti che dei finanziamenti erogati ma non ancora concessi ma non ancora erogati, non ancora proprio materialmente attribuiti ad alcune società, erano stati concessi sulla base di elementi che noi ci siamo accorti essere artefatti, comunque sia, ecco, come sostanzialmente che nelle carte proprio. Ecco, voi colonnello avete sequestrato diversi impianti, sì, molte, esatto, turbine, ecco. Questo è stato il primo blocco al maggio 2007, 9 milioni e mezzo di euro, quindi un bel contributo. Certo. Poi continuato a lavorare, e la grande operazione, diciamo, al di là di quella che si è sviluppata nei giorni scorsi, è venuta esattamente un anno fa, con un sequestro sempre preventivo d'urgenza di ben 7 parchi eolici, più un contributo a Roma, sempre in questo caso erogato, non ancora, cioè concesso ma non ancora erogato. Certo. Se sono state interessate praticamente quattro province, in Sicilia, in Sardegna, Catania, Siracusa, Palermo in Sicilia e Sassari in Sardegna, e contestualmente al Ministero un'ulteriore somma di altri 19 milioni e mezzo di euro circa. Il totale siamo intorno ai 180-190 milioni di euro per tutti i sequestri effettuati nel corso del tempo. Certo. Ovviamente siamo andati avanti con le indagini, la procedura prevede la richiesta di ordinanza e la conclusione delle indagini preliminari, e nella giornata di martedì 10 all'alba siamo andati a prendere quattro soggetti che nei cui confronti era stata scattata, oltre la denuncia per truffa, quindi che ha visto coinvolti un totale di 15 persone, anche è stato ritenuto sussistente anche il vincolo associativo, quindi l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa per l'ottenimento di contributi. Ecco, qui parliamo di centinaia di milioni di euro, colonnello, giusto? Ecco, allora io direi di fermarci qui un secondo con il colonnello Imparato per andare a parlare con l'ingegner Giuseppe Mastropieri di Nomisma Energia. Ho avuto il piacere di conoscerlo e quindi leggere i suoi studi quando mi occupai alcuni mesi fa delle mani della mafia, delle cosche trapanesi per la precisione, nell'eolico, quindi in Sicilia. E le chiedo questo, Mastropieri, ma a suo giudizio quali sono le pecche legislative, normative, di attenzione, di vigilanza, di controllo che consentono in questo che è un business fiorentissimo di permettere appunto a organizzazioni criminali o truffatori di fare il bello e il cattivo tempo? Sì, sostanzialmente abbiamo due aspetti che sono un po' da centrare, da rivedere rispetto al modello dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. E da un lato l'eccesso di incentivazione, un sistema incentivante che ad esempio ha consentito con quello che è successo rispetto a queste operazioni, cioè fino allo scorso anno il cumulo degli incentivi tra incentivi con la 488 in conto capitale e incentivi invece propri del settore delle rinnovabili attraverso un sistema ad hoc che si chiama i certificati verdi. Quindi io traduco volgarmente, per i nostri radioascoltatori, mi corregga ingegnere se sbaglio, i tanti soldi messi a disposizione che incentivano lo sviluppo dell'energia alternativa, in questo caso dell'energia eolica, sono un boccone troppo prelibato perché qualcuno non se lo lasci sfuggire. Esatto. E il canale dell'incentivazione era doppio, non c'era solo uno, ma addirittura due canali di incentivazione, e questo difatti raddoppiava l'appetibilità dell'affare. E in secondo luogo un sistema complessivo che ha dato per certi versi troppo potere alle regioni e agli enti locali nell'autorizzare e disciplinare la localizzazione di questi impianti eolici. Lei dice questo perché ci troviamo di fronte ad una sorta di federalismo decisionale sulle energie rinnovabili. Esattamente, forse anche poi a cascata dalle regioni ai comuni. Estremizzo troppo se dico che ognuno fa un po' come gli pare? No, assolutamente, è uno specchio della realtà purtroppo frammentata che abbiamo. E quindi questo ha creato la fuga di investitori dall'Italia, perché insomma era difficile capirci qualcosa, e dall'altro dei cortocircuiti a livello regionale o a livello territoriale, dove in qualche modo operatori del posto avevano possibilità di accesso di networking sul territorio, che riuscivano in qualche modo ad avere vantaggio rispetto a altri operatori che venivano da fuori. Ecco, domani avremo con noi ospiti sempre sul tema dell'energia eolica, due parlamentari, quindi lo chiederemo anche a loro. Ma le risulta, ingegner Mastropieri, che qualcuno abbia provato a mettere mano in questo caos normativo anziché federalismo? Quindi qui siamo all'anarchia tra i vari livelli di governo, e poi quello che succede è quello che stiamo guardando e vedendo nelle cronache. Sì, ci si sta provando con fatica da ormai diversi anni. Questo governo ha impresso un'accelerazione, solo che un po' vale un po' la metafora del fatto che ormai i buoi siano fuori dal recinto, quindi sarà difficile ritornare a un quadro di composizione unitaria. Ecco, questo che voglio dire è un'occasione che si perde, lo dico così come riflessione personale, perché l'energia verde dovrebbe essere comunque sostenibile ambientalmente, dovrebbe essere un valore aggiunto per tutti noi. Ingegner Mastropieri, io la ringrazio per il suo intervento. Concludo con il colonnello Imparato per chiederle, certamente lei non ha una sfera di cristallo, Ma crede che l'attività della Guardia di Finanza si fermerà qui o purtroppo avremo altre sgradite sorprese nel prossimo futuro? Guardi, come ho detto prima, questa nostra indagine veramente rappresenta un po' l'estensione nel concreto della nostra attività. Propensione quindi all'analisi finanziaria, non è stata fatta un'intercettazione telefonica, non è stata fatta alcun tipo di indagine tecnica, ma tutto il servizio è stato provato da complicati, devo dire anche articolati, riscontri documentali delle movimentazioni finanziarie, dei documenti esibiti a sostegno della richiesta, perché gli due elementi principali sono solidità finanziaria e titolarità dei terreni. Terreni sottoposti a vincoli che, come ha detto il professor Mastrovieri, che saluto, veramente sono una babele per riuscire a districarsi in questi piccoli vincoli e servitù locali. Una volta che ci sono sviluppate queste analisi finanziarie, sviluppate queste analisi documentali e hanno interessato anche l'estero, anche questo è un elemento importante, perché sono state fatte rogatorie in 4 paesi stranieri dove transitavano questi soldi praticamente, ed è quindi rappresentato effettivamente la nostra massima espressione come polizia economico-finanziaria. Benissimo. Io la... 2 anni, non è escluso che ci sia in itinere qualche altra. Certo. Io ringrazio davvero di cuore il colonnello Mario Imparato, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, in regia Pietro La Corte e in studio Elisabetta Fusconi, e rimanete collegati con noi domani puntuali, perché affronteremo ancora il tema dell'eolico e andremo in Sicilia e in Sardegna. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.